as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti. Oggi ad Il Pane e Rose non potevamo che non fare una puntata dedicata alla manifestazione del 3 ottobre. Non abbiamo andato in onda perché volevamo pubblicizzare l'iniziativa di Reset Against the War che c'è stata sabato scorso. È stata veramente una iniziativa importante. C'è stata anche la manifestazione nel pomeriggio in cui abbiamo celebrato il ritorno dei compagni della flottiglia. In più abbiamo fatto questa manifestazione per ricordare chi ancora sta navigando e chi è stato arrestato e deve essere liberato. La manifestazione del 3 ottobre io penso che sia stata una manifestazione che rimarrà nella storia. Sono 25 anni che sto nel sindacato, sono 40 anni che faccio battaglie sindacali e politiche. In realtà quando ero ragazzo si facevo soprattutto politiche. Sinceramente, quello che è successo il 3 ottobre, era una cosa che non vedevo da anni. Ma il 3 ottobre abbiamo visto un miracolo. Chi segue il Pane e Rose sa quante volte noi del Pane e Rose abbiamo chiesto l'unità di classe. Abbiamo chiesto che ci fosse unità tra sindacati di base, sindacati confederali, lavoratori, organizzazione, movimenti, studenti, società civile. E ci è voluto Gaza, ci è voluto lo genocidio di Gaza, il massacro dei palestinesi, un governo che è complice di un genocidio. E qui voglio fare un appello alle persone che ci seguono e nei post delle nostre pagine, delle pagine del Pane Rosa, alcune volte scrivono: ah, però durante gli scioperi del 18, dell'articolo 18, insomma, o sulla legge Fornero, sul Job Act, non ci sono state questa adesione. In passato, durante le guerre che ci sono state, anche più feroci, gli scioperi non sono stati fatti. Per non dimenticare quello che è successo a Genova, poi ne parlerà Bulgarelli, perché in questa puntata abbiamo intervistato due della CGIL, il segretario di Bologna, che era al presidio davanti alla Bonfiglioli, e abbiamo intervistato Bussanti, che è il segretario regionale della CGIL. Non ho intervistato gli altri sindacati di base perché era una manifestazione enorme, io stavo dietro, con la CGIL si è messo dietro, io insieme ai compagni della FIOM, erano uno spezzone della Bonfiglioli tutt'ora. La mattina abbiamo fatto un presidio per cercare di convincere le persone a non entrare, che purtroppo lo sciopero non è che andò benissimo, ok? Cioè, ci sono stati alcuni settori che è riuscito, anche perché in piazza a Bologna io non ho mai visto tanta gente in vita mia, poi siamo andati in tangenziale, è stata una manifestazione stupenda. Diciamo che veramente è stato qualcosa di storico. Sì, noi abbiamo raggiunto un traguardo come trasmissione perché ci hanno ascoltato. Certamente non è che hanno ascoltato noi, hanno ascoltato i lavoratori che sono scesi in piazza, la società civile che è scesa in piazza e ha trasportato, ha condotto i burocrati sindacali di base, di confederali, in questo caso la CGIL, a dire no, cioè questo non possiamo rimanere chiusi nei nostri uffici, nelle nostre camere del lavoro, nei nostri ragionamenti settari, no? E dobbiamo comunque aprirci. È il momento dell'unità, è il momento di stare in piazza, è il momento di fare una pressione verso questo governo. E così è venuto fuori questa manifestazione stupenda. Ora adesso sentiamo un pezzo bellissimo, poi sentiremo l'intervista a Bulgarelli e a Bussandri e poi sentiamo brevi conclusioni perché vediamo come viene. A dopo. Dai, spacca, spingi. Spingi, spingi, spingi. Free Palestine. Free Palestine. Di

finalmente da anni. Io ho provato a guardare in passato uno sciopero generale, non di una categoria. Risale alla notte dei tempi. Sì, è vero. E pensiamo anche c'è un processo di cambiamento della CGIL che si fa nei gruppi dirigenti, negli organismi, al congresso, nei documenti, ma si fa anche nelle piazze, nelle decisioni che nei momenti importanti prendi. Se pensiamo anche ai corsi e ricorsi della storia, l'altro giorno leggevo il GSF, la Global Summit Flottiglia, è lo stesso acronimo del Genoa Social Forum. Sì. Pensiamo a quello che è successo a Genova dopo l'uccisione di Carlo Giuliani, la Diaz, Bolzaneto, non ci fu un minuto di sciopero generale. Oggi la CGIL invece ha lo sciopero, ha proclamato lo sciopero generale tempestivo nel rispetto della legge, con una proclamazione di sciopero molto chiara rispetto anche al diritto di esercitare lo sciopero senza preavviso e senza rarefazione. Insomma, è una scelta molto importante che va sostenuta col protagonismo e l'attivismo di tutti i nostri iscritti delegati nei luoghi di lavoro. Speriamo che i temi del lavoro rientrino in questa, perché i lavoratori, qualcuno non ha scioperato, molti hanno scioperato, ma anche sia chi non ha scioperato e chi invece ha scioperato e verranno in piazza, chiedono comunque che i temi del lavoro diventino generali come questo sciopero. Beh certo, ma io non vedo però contraddizione. Sì, non ci sono. In questi giorni sono tornati ieri notte i lavoratori della IUX da Roma, lavoratori che non erano abituati al conflitto realizzato da altre categorie, che il giorno che si sono trovati con una procedura di mobilità aperta con 160 licenziamenti in interporto hanno organizzato lo sciopero articolato con i picchetti davanti all'azienda, quello sciopero è servito. Ieri hanno fatto una prima intesa in cui l'azienda ha sospeso la procedura di mobilità per iniziare una trattativa mettendo da parte i licenziamenti unilaterali. Noi non vediamo una contraddizione tra difendere il proprio posto di lavoro e sapersi indignare di fronte a quello, al genocidio che avviene in Palestina, e però siamo di fronte a un autunno in cui il compito della CGIL è riunificare le tante lotte. Il 25 ottobre, manifestazione nazionale della CGIL, chiamata per anticipare la lotta contro una finanziaria di guerra e del riarmo, ha quell'obiettivo. Mi sembra evidente che andiamo verso una finanziaria lacrime e sangue per lavoratori, pensionati, non c'è un euro per i contratti pubblici, scuola e sanità sono al disastro, ma ci sono 140 miliardi di euro in 10 anni per il riarmo. Questa è l'occasione in cui la lotta per la pace, contro il genocidio in Palestina, per la difesa dei posti di lavoro, per la politica industriale, per i salari, per la scuola, la sanità, avere minori liste di attesa, tutto si unifica in quella piazza, piazza che la CGIL mette a disposizione di tutte e tutti, quindi non prendete impegni, 25 ottobre ci vediamo a Roma. Domani c'è una manifestazione anche a Roma, certo, sempre la CGIL ha deciso di esserci, partecipiamo, è una manifestazione chiamata dalle comunità palestinesi di tutta Italia, l'Assemblea Nazionale della CGIL ha deciso che parteciperemo, un'altra data importante, io penso che siamo dentro un autunno che è partito presto e queste piazze segnano un vento nuovo, un vento che il governo pensa di fermare ma non ce la farà, io penso anche che noi abbiamo dato un contributo in questa primavera con la campagna referendaria, abbiamo preso la rincorsa perché abbiamo imposto al paese una discussione sul lavoro, i diritti, la precarietà, la salute e sicurezza e oggi quelle lotte si congiungono all'aspirazione ostinata a un mondo dove il multilateralismo, la pace, il diritto internazionale, i diritti umani sono rispettati. Insomma, ce l'ha detto Greta Thunberg dalla flottiglia, giustizia sociale, la lotta contro il genocidio e la giustizia climatica sono la stessa lotta. Io non vedo contraddizioni. Grazie. Allora, siamo qui con il nostro segretario regionale della CGIL. Sì, oggi è una giornata bellissima, decine di migliaia di persone in piazza a Bologna per lo sciopero generale, per la manifestazione per Gaza e per la flottiglia. Quello che è avvenuto l'altra sera è un fatto inaccettabile, un atto di pirateria internazionale messo in atto da Israele a cui il nostro governo non ha reagito perché evidentemente non ha a cuore l'ordine costituzionale. Noi siamo in piazza anche per difendere la Costituzione che ripudia la guerra e ripudia i genocidi.

Zaura, Zaura, Shabi, Vi, Dai, Vi, Dai, I, Zaura, Zaura, Shabi. Intifada, intifada, Zaura, Shabi, Al Mukawa, Mamishkada, Mieza, Cesamia, Palestina, Shalim, Segno, Su, Sistema, Pazia, Resistenza, Popolare, Tutto, Guanta, Mieza, Via. Palestina, io l'insegno sul sistema, pazia, resistenza, popolare, tutta quanta mezza via. Al Mukawama, al Mukawama, madre denda by top the butter, starantula. Al Mukawama, al Mukawama, keep resisting your resistenza global. Al Mukawama, al Mukawama, madre denda by top the butter, starantula. Al Mukawama, al Mukawama, keep resisting your resistenza global. Al Mukawama, resistenza popolare. Like the people of Philistine, the resistance should never give in. Abbiamo ascoltato due pezzi, questa volta l'abbiamo fatta grossa. Due pezzi che mi piacciono tutti e due, li ho messi tutti e due. Abbiamo ascoltato Bulgarelli, l'intervista al Bulgarelli, segretario provinciale della CGIL di Bologna. Abbiamo intervistato Bussandi, segretario regionale della CGIL. Insomma, avete sentito quello che hanno detto. Momento storico, momento importante. Finalmente si scende in piazza. La CGIL è convinta che bisogna andare avanti. Voglio ricordare a tutti quanti che il 25 ottobre ci sarà una manifestazione contro il governo. Io faccio mie le parole di Bulgarelli. La manifestazione, e lo dico anche ai lavoratori che ci ascoltano, non è stata solamente una manifestazione contro il genocidio di Gaza e contro un governo che è complice del genocidio e dunque siamo scesi in piazza per dire noi non siamo complici, ma è una manifestazione così che deve dire altre parole. Le ci sono state dette, però è importante che oggi, soprattutto dopo la pace finta di Trump, che è una pace finta perché l'occupazione non si è fermata, in Cisgiordania continuano a morire le persone, i coloni continuano a essere impuniti, a massacrare la gente, a rubarsi le terre, a Gaza c'è il caos più completo, ci sarà una ricostruzione che sarà a vantaggio degli israeliani, degli americani e di qualche arabo di Dubai, qualche finanziaria multinazionale che poi fanno capo sempre alle solite. Insomma, la situazione non è bella, però davanti a un momento così, in cui il rischio è che si ristagni tutto, che si blocchi tutto, che si ritorni a stare chiusi in casa o sui cellulari e non si scende più in piazza, il rischio c'è, dobbiamo ricordarci che il problema è il militarismo. Il problema è una società oggi che abbiamo anche in Italia in cui vogliono trasformare i nostri figli in carne da cannone. E anche i giovani, anche chi fino a 40-50 anni, vedi Ucraina, cioè l'Ucraina è un punto di riferimento, questi qui vogliono fare la guerra, questi qui vogliono la guerra continua, poi intanto arriva Trump, ti fa la pace dopo che lui ha finanziato la distruzione per ricostruire e fa business, cioè non è possibile, non vogliamo essere la nuova Ucraina, dobbiamo far fermare tutte le guerre. Non possiamo avere un'economia fondata sulla guerra, non solo perché moriamo e distruggiamo il pianeta, perché la guerra non solo ammazza gli esseri umani, ammazza gli animali, ma distrugge anche l'ambiente. Noi abbiamo lottato tanto per la transizione ecologica e qui stiamo, immaginate quanto consuma un carro armato, un jet militare o un bombardiere, o quanto danno fa l'ambiente un missile che esplode. Okay? Cioè, oppure le case che si vengono distrutte, soprattutto quelle vecchie, in maniera non controllata. Sono danni ambientali, per non parlare dell'uranio impoverito. Dunque, noi dobbiamo scendere in piazza, continuare a lottare, così come abbiamo fatto, uniti, continuare a scioperare, perché il sciopero è importante, fino ad arrivare a uno sciopero generale europeo, dal Pratello, con Reset Against the War, è venuto fuori che dobbiamo cercare di organizzarci per poter far sì che si arrivi a uno sciopero generale europeo, partendo dall'Italia, partendo dai paesi che stanno lottando, che stanno scendendo in piazza, per dire no alla guerra, no a nuovi genocidi, alla fine reale delle occupazioni, no alla finanza militarista, non a una società fondata sulla sulle mancanze di diritti. E la società militarista ha bisogno anche di schiavi in fabbrica, è tutto collegato. Questo dobbiamo ragionare, questo dobbiamo combattere. E per far questo dobbiamo creare delle agorà ovunque, in tutti i posti, unirci, allargare il più possibile, senza pregiudizi, e andare in piazza tutti insieme di nuovo e non fermarsi e bloccare tutto continuamente, sempre, fin quando il governo non cambia, fin quando non arrivi qualcuno che governi questo paese e l'Europa e cambi in maniera sostanziale la società. All'interesse di evitare che i lavoratori e le lavoratrici possano rinunciare.